Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. 12:15, buongiorno dal giornale Radio Rai del Friuli Venezia Giulia, condotto da Livia Liberatore e Andrea Vardanega. Parleremo del tragico incidente aereo che ieri ha coinvolto un aeromobile delle Frecce Tricolori all'Aeroclub di Torino Caselle, causando la morte di una bimba di 5 anni. A seguire l'incidente stradale di stamattina a Barcole, quello di ieri ad Azzano Decimo, in cui è morto un 58enne. Poi faremo il punto sull'ultima giornata di Pordenone Legge, infine la pagina sportiva con la partita di ieri della Triestina. Parliamo di cronaca in apertura, tra poco gli aggiornamenti sull'incidente di Torino. Intanto vi diamo notizia dei due incidenti stradali che sono occorsi nel corso delle ultime ore a Trieste. Il più recente, 4 ventenni sono stati soccorsi dal personale medico infermieristico per le ferite riportate in un incidente stradale che è accaduto attorno alle 6:45 all'altezza della Pineta di Barcola. Per cause in corso di accertamento, la persona alla guida della vettura ha perso il controllo del mezzo. L'auto si è cappottata su un fianco ed è finita contro alcune auto in sosta. Gli infermieri della SORES hanno inviato 3 ambulanze e un'auto medica e hanno attivato le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, che hanno estratto un ferito bloccato nell'auto. Uno dei ragazzi è stato portato in codice rosso all'ospedale di Cattinara, privo di sensi, 3 in codice giallo. E ieri un uomo di 58 anni, Roberto Zanetto di Valle Noncello, è morto in un incidente stradale mentre era in sella alla sua moto nel primo pomeriggio nella frazione di Corva ad Azzano Decimo. Il passeggero della moto, il figlio di 11 anni, è stato trasportato prima in ambulanza dagli infermieri della SORES all'ospedale di Pordenone e poi trasferito in elisoccorso all'ospedale di Udine in gravi condizioni. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, la moto si è scontrata con una vettura. Sempre ieri un altro incidente ha fatto un'altra vittima. Fausto Franceschinis, 38 anni, originario di Muzzana del Turniano, è morto dopo aver perso il controllo della sua moto per cause ancora da accertare a Precinicco sabato notte. Ricoverato all'ospedale di Udine, è morto nel tardo pomeriggio. E sempre per la cronaca, 5 vetture sono state incendiate intorno alle 3 di questa notte in una autofficina a Buia, distrutte 4 auto di proprietà della ditta e un'altra di un privato cittadino. Intervenuti sul posto i carabinieri di Tolmezzo, oltre ai vigili del fuoco. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti non si esclude l'origine dolosa delle fiamme. Si è tenuto a Mortegliano il congresso annuale dell'Associazione Friulana Donatori di Sangue di Udine. Stamattina la messa officiata dall'arcivescovo Monsignor Mazzoccato nella chiesa della Trinità, i discorsi ufficiali e la consegna dei riconoscimenti a coloro che tra i 50.000 volontari dell'associazione hanno raggiunto uno dei traguardi previsti. Quest'anno i premiati sono stati 2.258. Nei primi 8 mesi dell'anno, ha comunicato la FDS, le donazioni sono aumentate del 4%, toccando il numero di 23.354. I nuovi iscritti sono stati 1.339, aumentati del 19%, dei quali 615 hanno un'età tra i 18 e i 20 anni. E adesso gli aggiornamenti sull'incidente aereo di Caselle. Sentiamo il servizio. Saranno lunghe e complesse le indagini per stabilire le cause dell'incidente accorso all'MB-399 delle Frecce Tricolori, che ha perso quota nei pressi dell'aeroporto di Caselle a Torino fino a schiantarsi a terra. A causa dell'impatto ha perso la vita una bambina di 5 anni. Un problema al motore, secondo alcune indiscrezioni, è quanto avrebbe comunicato al suo caposquadra durante il volo il maggiore Oscar Del Do, Pony 4 delle Frecce Tricolori. Il pilota avrebbe riferito che doveva sganciarsi dalla formazione. In seguito ha perso il controllo del velivolo e ha azionato il dispositivo di eiezione dalla cabina. L'aereo, cadendo a terra, ha preso fuoco e alcune parti, probabilmente il seggiolino, ha colpito un'automobile di passaggio con a bordo una famiglia. La madre, il padre e il fratello della vittima di 12 anni sono stati ricoverati in ospedale a causa delle ferite riportate. Il 12enne ha riportato ustioni che hanno interessato quasi il 30% del corpo. È stato ricoverato in rianimazione, ma le sue condizioni non sembrano critiche. Questa mattina è iniziato il graduale risveglio dalla seduzione precauzionale. In mattinata è stato dimesso il papà con 20 giorni di prognosi e nella notte il maggiore Del Do. Le frecce tricolori avevano raggiunto da rivolto il capoluogo piemontese per partecipare a un'esibizione organizzata per il centenario dell'aeronautica militare. Grande emozione e vicinanza ai familiari della piccola vittima a rivolto, casa delle frecce tricolori. Paolo Rubino, comandante secondo stormo. Noi ci stringiamo alla famiglia della bimba per quanto successo. Purtroppo è stato un caso di vera fatalità. Questi velivoli saranno sostituiti? Nel prossimo futuro è prevista la sostituzione nel ciclo dell'ammodernamento della flotta della pattuglia. Rivolto Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo al meteo, il cielo sereno o poco nuvoloso sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, Trieste 23 gradi, Gorizia e Pordenone 22, Udine 21, 21 gradi anche a Tolmezzo e a Tervisio, Forni di Sopra 18 gradi, a Piancavallo 15, sull'Ussari 14, sullo Zoncolan 13, a Lignano 25 gradi e a Grado 24. Le previsioni dell'ARPA regionale per oggi pomeriggio, cielo variabile su tutte le zone, tuttavia nelle zone alpine più interne, in quota, specie nel Tarvisiano e anche sulla costa, sarà possibile maggiore presenza di sole. Sull'alta pianura e sulle prealpi non sarà del tutto esclusa la possibilità di qualche debole pioggia, venti deboli a regime di brezza. La pagina culturale, ultima giornata di Pordenone Legge, nel pomeriggio si parlerà di migranti con la giornalista Sally Hayden, che ha scritto un libro inchiesta sulla rotta mediterranea. Tra gli ospiti, tra gli altri ospiti, Erika Emanuel Schmidt, Corrado Augias, Mauro Corona, Ilaria Tuti e Viola Ardone. C'è una ragazzina che si chiama Elba, che è nata e cresciuta in questo posto, e all'improvviso le viene data la possibilità di uscire fuori da questa struttura. E lei non sa come fare, ha paura, conosce solo quello, è sempre vissuta lì, e per fortuna però incontra uno psichiatra basagliano che si chiama Fausto Meraviglia, che dà anche un po' il titolo al romanzo, che le insegna la libertà. E la libertà però è una conquista non sempre facile. I due si trovano, si scelgono, ne nasce un rapporto praticamente di padre e figlia, perché Elba è la figlia che lui si è scelto. Questo incontro cambierà le vite di entrambi, sia di Elba sia dello psichiatra Meraviglia. Ho dovuto studiare tanto per questo libro, per andare a ricercare il contesto storico dell'epoca, oppure ha preferito focalizzarsi sulla fiction, sul lato, diciamo, dei personaggi inventati? Allora, ho voluto studiare molto perché, essendo un argomento così delicato, non volevo correre il rischio di dire delle inesattezze. Stiamo parlando di vite delle persone, anche vite molto dolorose, quindi un grande studio. Dopodiché una parte del libro è narrata in prima persona da Elba, che è una ragazzina che è nata e vissuta lì, quindi è tutto filtrato attraverso anche la sua ottica, il suo sguardo anche ingenuo di una ragazzina che conosce quello come sua casa, quello è il suo mondo. Quindi ho cercato di unire le due cose, un registro un po' fantastico del suo punto di vista e la realtà terribile e oscena di quei luoghi di detenzione che erano i manicomi. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Il calcio, grande attesa per la sfida dell'Udinese contro il Cagliari, che comincerà tra poco al Sant'Elia. Per i bianconeri obbligo vincere dopo un inizio di campionato con soli due punti. In Serie C, seconda vittoria di fila per la Triestina, che gioca a Fontana Fredda per l'impraticabilità del manto erboso del Rocco e batte la Pro Vercelli per 2-0. Abbiamo accompagnato i tifosi degli alabardati in questa trasferta anomala. Di Pilat e di Luttazzi in pieno Friuli occidentale, il pubblico di casa che festeggia, gli 800 tifosi in esilio, oltre a vedere una bella partita, hanno avuto l'occasione di essere protagonisti di una pagina a suo modo storica della Labarda. La Triestina non giocava in casa da lontano Trieste dagli anni 50, quasi 70 anni dopo la disastrosa condizione del Rocco la costringe per almeno due partite a Fontana Fredda, più di 100 km da Valmaura, ma questa strana trasferta alla fine porta fortuna. Speriamo sempre di giocare qua a questo punto. No, scherzo, torniamo presto al Rocco immediatamente. Una nuova esperienza ha portato bene e speriamo che continui così per tutto il resto dell'anno. Alto Gnon rimesso a nuovo per il Pordenone, nel frattempo sparito dal calcio. Di casa c'è la Triestina con 3.000 abbonati rimasti a Trieste, un po' per la scomodità della trasferta, un po' perché comunque non tutti ci sarebbero stati. Sui due pullman organizzati dal centro di coordinamento, donne, tifosi di lunga data, giovani e bambini dispiaciuti per la situazione, ma l'unione per loro viene prima di tutto. Io sono andata fino a Crotone, quindi andare a Fontana Fredda per me è come andare al supermercato a fare la spesa, Quindi per la Triestina si fa questo ed altro. Non ci aspettavamo sicuramente questa cosa, però è capitata e andiamo. I soliti cori, il solito nucleo della Furlan che da curva diventa tribuna centrale. C'è anche l'omaggio al campione olimpico Luca Giustolisi, scomparso in settimana. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. È tutto, assistenza tecnica di Tommaso Vinoni e Giampaolo Zucchi, ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Grazie per l'ascolto da Andrea Vardani e Livia Liberatore. Un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.